Euroreportage. Europa sulla rotta dei migranti. Il tempo delle scelte. Di Raffaella Calandra. The Pope can come and help us. La speranza supera le recinzioni. Il Papa arriva e ci aiuta, ci dice un migrante. Luccica sotto il sole cocente dell'Egeo il filo spinato appena giunto alla recinzione qui alla Moria Camp, e quasi acceca il bianco della calce con cui nelle ultime ore è stato ritinteggiato il muro di cinta del più grande dei campi profughi di Lesbo, l'unico diventato un centro di detenzione dopo il via al piano tra Europa e Turchia con i primi rimpatri, piano che ha fatto calare dell'80%, calcola Frontex, gli sbarchi. Spostate molte persone per evitare l'effetto affollamento, ripulito tutto, il cancello del campo si aprirà tra poche ore per far entrare qui Papa Francesco nella più significativa tappa della sua visita in un'altra porta d'ingresso d'Europa, un'altra isola, Lesbo, dopo Lampedusa. Da giorni non si parla d'altro tra le taverne del porto, dove la Turchia sembra quasi di poterla toccare con mano, o tra le tende di Karatepe, il campo senza barriere dove migliaia di migranti aspettano di conoscere il proprio destino. Alles setzen Sie hin und sprechen wir seit Da 2 o 3 settimane dopo cena con gli altri afghani ci ritroviamo e parliamo sempre solo del Papa, e tutti dicono che è come un dio. Sorride Saleh e la sua fiducia è la stessa di Hamed, ortopedico iracheno in viaggio con la giovane moglie e i figli verso Hannover. We are escaping from the war. And as you know, I am a doctor specialist on orthopedic. Ma lui è sbarcato dopo il 20 marzo, la data che è uno spartiacque sulla rotta dei Balcani, e nei suoi occhi legge il terrore alla possibilità di essere rispedito indietro. Ripete che loro scappano dalle guerre, che rispetteranno le leggi, che l'Unione Europea per loro è un sogno, ma legge nei suoi occhi anche la fiducia enorme che da musulmano ripone nell'effetto politico del messaggio di Francesco. Speranza che è la stessa degli abitanti di Lesbo, isola d'altra parte a sua volta popolata dai profughi cacciati dalla turca Smirne, come erano i nonni di padre Leon Kiskinis, unico parroco cattolico di Lesbo e Chios, che quando ha saputo che incontrerà Papa Francesco ha pensato ad uno scherzo. Non ci credevo proprio, pensavo che fosse uno scherzo. Lei lo incontrerà, che tipo di messaggio affiderà al pontefice? Santità, la ringraziamo perché lei che sta al centro, che sta a Roma, è venuto a farci una coccola proprio così alla periferia della chiesa, perché a Mitilini, a Lesbo, siamo proprio ai confini con la Turchia, siamo proprio ai confini tra l'Europa e l'Asia. Qual è la speranza che quest'isola ripone in Francesco? Che non sia dimenticata la questione prima di tutto umanitaria. Queste persone sono venute qui cercando una vita migliore, quindi la gente di Lesbo vuole prima di tutto che queste persone trovino la dignità che spetta a loro. Questi sono stati mesi molto difficili, anche dolorosi, per l'isola di Lesbo, perché ogni giorno c'erano sbarchi, persone da soccorrere, ma anche tanti naufragi con tantissimi morti, compresi tanti bambini. Cosa le resta mesi dopo? Ero in parrocchia, sono venute 3 persone e hanno chiesto un piccolo aiuto per poter fare il biglietto con il traghetto per andare da Chios a Pireo, ad Atene. Li ho aiutati e praticamente la domanda è stata: ma perché ci state aiutando? Noi siamo musulmani, perché lo fate questo? Questa è un'isola di rifugiati, sì, questa sì. È un'isola di gente che appunto ha dovuto lasciare la propria terra proprio perché erano stati cacciati da cause di forza maggiore, e quindi in questa accoglienza nei confronti dei siriani soprattutto, ma anche afghani, iracheni che sono arrivati a migliaia in Grecia, è anche un po' il ricordo della propria storia. Se tu hai il nonno o la nonna che ti raccontano delle miserie, delle peripezie, delle avventure che avevano avuto nel passare dalle coste turche a quelle greche, nel lasciare le loro terre, la loro vita per nulla, per cominciare tutto da capo, come si può dimenticare, come si può non vedere in questi migranti, questi profughi, il volto dei loro nonni, delle loro nonne che avevano vissuto le stesse miserie, avevano le stesse speranze. E la mia nonna, per esempio, era di Smirne e mi raccontava tutte le avventure, tutte le difficoltà nell'arrivare al porto di Pireo per cominciare una nuova vita. Quindi quando vedo loro posso pensare anche ai miei nonni che avevano affrontato e vissuto le stesse difficoltà. difficoltà e avevano gli stessi sogni e lo stesso diritto di essere trattati da persone umane, non da numeri, non da clandestini. Dalle taverne musica rebetica si diffonde per i vicoli di Lesbo, il canto proprio delle generazioni passate scappate dalla Turchia, i cui nipoti ora da quasi un anno si sono ritrovati a soccorrere migliaia di altri profughi. Nessuno scappa da casa se questa non diventa la bocca di uno squalo, ha scritto qualcuno su un muro laterale del Moria Camp, messaggio esplicito inviato soprattutto a Bruxelles dopo l'accordo con Ankara. Un accordo anche difficile da mettere in atto, così dopo giorni di stallo ora la burocrazia ellenica ha appena cominciato ad esaminare la montagna di domande d'asilo per poter stabilire chi rimandare indietro e chi invece far restare in Europa. Un'Europa orgogliosa delle vite salvate che si vergogna invece dei muri, ricorda l'alto rappresentante della politica estera Federica Mogherini. E in aiuto della Grecia arrivano sulle isole funzionari come Jean-Pierre Chembry dello European Asylum Support Office. Stiamo facendo nelle isole lavoro relatato a questo processo dell'admissibilità a causa dell'accordo con la Turchia. Le persone che sono partiti di già, queste erano persone che non hanno fatto una richiesta d'asilo. Quando ci potranno essere allora delle altre espulsioni? Il processo prende circa 2 settimane. Adesso siamo nel processo di fare questi interview. L'abbiamo fatti di già i primi interview. Abbiamo ieri di già dato i primi decisioni. Attualmente sono le autorità greche che danno la decisione finale. E poi adesso ci sono 5 giorni dove la persona può fare un ricorso. Il processo prende circa 2 settimane. Considerando l'alto numero di persone che ci sono e praticamente ormai tutti hanno fatto domanda d'asilo, sarà un processo molto lento. Nel frattempo restano fermi qui nei vari campi? Non è un processo troppo lento, ma è un processo di grande numero. Infatti siamo qua oggi in questo campo solo, siamo 60 persone. La settimana prossima raddoppiamo la nostra gente qua. Quindi qual è l'obiettivo? Aver esaminato tutte le domande entro l'inizio dell'estate, fine estate? No, l'obiettivo qua non è solo di fare questo processo presto, ma anche fare questo processo nel modo corretto. Nel frattempo i migranti aspettano, la tensione sale, come ha potuto notare Michele Telaro da mesi a Lesbo per Medici Senza Frontiere. C'è uno stato di incertezza totale, non capiscono perché, non sanno perché sono detenuti, non sanno se saranno rispediti in Turchia o se rimarranno in Grecia, quindi c'è uno stato assolutamente di incertezza, di disperazione crescente. Questa situazione ha provocato nei giorni scorsi anche chiaramente un aumento della tensione, c'erano proteste quotidianamente all'interno di Moria, c'erano un aumento delle tensioni tra le diverse nazionalità. La tensione è calata perché il numero delle persone è calato e perché hanno iniziato a esaminare le domande e quindi le persone in questo momento nutrono una qualche speranza di una risposta positiva. Fino adesso però in quel primo gruppo, diciamo, erano state delle espulsioni, erano stati per lo più pakistani che erano stati rimandati indietro in Turchia e che continuano ad essere il gruppo, diciamo, la nazionalità in questo momento un po' più nel limbo qui sull'isola di Lesbo. Prima del 20 di marzo non ricevevano un documento che gli permettesse di lasciare l'isola di Lesbos e poi di circolare liberamente in Grecia e di cercare di continuare il loro viaggio. Mentre tutte le altre persone, le altre nazionalità sono detenute all'interno di Moria, ma diciamo libere di circolare all'interno dell'hotspot, i pakistani, i nordafricani, nel momento in cui entrano all'interno di Moria sono messe in una detenzione più stretta, in delle strutture chiaramente detentive, senza alcun motivo, perché come tutte le altre nazionalità hanno diritto a chiedere l'asilo. Ed è questa la ragione per cui c'è un gruppo di pakistani che sta cercando di sfuggire a ogni controllo della polizia qui sull'isola? Sì, ci sono all'incirca 200-300 per la maggioranza pakistani, ma ci sono algerini, marocchini, cittadini del Bangladesh che erano qua prima del 20 marzo, ma finora non hanno voluto entrare a Moria perché hanno paura di essere espulsi verso la Turchia. La polizia finora li ha tollerati, non li ha arrestati, quindi sono in un limbo totale, si trovano in una spiaggia vicino al porto. Le condizioni igieniche di questo luogo sono assolutamente precarie perché il comune ci ha sempre negato la possibilità di organizzare delle strutture igieniche, dei bagni, delle strutture sanitarie, e quindi queste persone sono disperate, in un limbo totale, non hanno alcuna risposta, non hanno alcuna speranza. Pure i bambini oggi a Lesbo parlano del Papa, e nel campo di Cora Tepe, tra i disegni appesi ad un container, ne spunta uno con un signore vestito di bianco accanto al mare azzurro, quell'Egeo attraversato nel 2015 da più di 1 milione di persone e da 150.000 migranti solo nel 2016. Questi ora sono i primi giorni in assoluto senza sbarchi, effetto del piano europeo, e almeno non sta aumentando quell'enorme distesa rossa che tra gli ulivi di Molivos, a nord dell'isola, ricorda tutte le vittime. A distanza sembra quasi un tappeto rosso, ma poi ti avvicini e riconosci giubbotti, migliaia di giubbotti salvagente, troppe volte inutili, e dietro ogni giubbotto un tentativo di entrare in Europa. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.